Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi, a quanti si stanno vivendo un momento di vacanza, a quanti per diverse ragioni stanno lavorando, a quanti vivono l'esperienza della solitudine, dell'anzianità, della malattia e a tutti coloro che vivono questo momento come un momento di ascolto della parola di Dio. Chiediamo allo Spirito di illuminare quest'ora e mezzo che insieme trascorreremo, perché la parola di Dio tocchi non solo la nostra testa, ma riscaldi il nostro cuore e plasmi la nostra vita. Chi segue regolarmente questo nostro appuntamento mensile sa che stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli. Questa sera rileggeremo e commenteremo insieme il capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dopo che nelle puntate scorse abbiamo visto come l'esperienza della comunità cristiana si è aperta agli orizzonti del mondo. Invito quanti hanno la possibilità di farlo di prendere tra le mani un'edizione della Sacra Scrittura, un'edizione della Bibbia, in modo da avere il testo davanti a sé mentre insieme lo leggiamo e lo commentiamo. Iniziamo subito lasciando che la parola di Dio tocchi la nostra vita e quindi leggendo direttamente insieme il brano che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Come dicevo, il testo che fa di riferimento alla nostra puntata è tutto il capitolo 12. Nel capitolo 12 degli Atti degli Apostoli viene descritta la situazione della Chiesa di Gerusalemme. All'indomani dell'apertura di un'altra Chiesa fondamentale per le origini del cristianesimo, come era appunto la Chiesa di Antiochia. La Chiesa di Gerusalemme, avevamo notato la volta scorsa, è una Chiesa che a un certo punto, attorno agli anni 40, vive un momento molto delicato, che è il momento della carestia da un lato e della persecuzione dall'altro. È proprio su questo tema che si concentra il capitolo 12. Divideremo la lettura in quattro momenti: il momento in cui inizia la persecuzione, il momento dell'arresto e della prigionia di Pietro, la liberazione di Pietro e poi la fine del persecutore, la fine del re Erode Agrippa. Cominciamo con il primo momento che racconta la persecuzione della Chiesa di Gerusalemme. Sono solo tre versetti, ma sono carichi e intensi per come vengono descritti da Luca. In quel tempo il re Erode intraprese una persecuzione contro alcuni membri della Chiesa. Fece decapitare Giacomo, fratello di Giovanni, ma vedendo che ciò risultava gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Tre soli versetti che però sono carichi di elementi. Primo aspetto da evidenziare. In quel tempo il re Erode intraprese una persecuzione contro alcuni membri della Chiesa. L'Erode di cui si parla è Erode Agrippa I, pronipote di Erode il Grande. Erode il Grande è quello della strage degli innocenti, per intendersi. Ecco, nel 41 d.C. re Erode Agrippa viene nominato re su tutta la Palestina e regna per 3 anni, muore al termine di questi 3 anni. Quindi da un punto di vista storico, con i dati storici alla mano, riusciamo a collocare bene questo momento delicato della Chiesa di Gerusalemme. Siamo tra il 41 e il 44 d.C., quindi a pochi anni dal mistero pasquale, dalla morte e risurrezione di Gesù, la Chiesa di Gerusalemme vive già un momento di persecuzione molto forte, una decina d'anni dopo. Questo ci fa capire come il cristianesimo si espande abbastanza velocemente all'indomani del mistero pasquale. La persecuzione è qui scandita dal fatto che viene decapitato Giacomo, fratello di Giovanni. Ora, noi sappiamo che fino a questo momento sostanzialmente i 12 erano rimasti intoccati. c'erano state delle ondate di persecuzione, però quelle ondate di persecuzione provenivano dalle autorità religiose, soprattutto dalla setta farisaica, e andavano a dirigersi contro una parte della comunità, che era la parte, se vogliamo, degli ellenocristiani, cioè di coloro che avevano aderito al cristianesimo dopo aver per certi aspetti riletto in modo molto ampio quelle che erano le categorie giudaiche, le categorie del Tempio, le categorie della legge, e proprio questi elementi erano gli elementi che suscitavano fastidio, davano disagio a quelle che erano le autorità religiose, per cui le autorità religiose li avevano prima minacciati e poi, nel caso di Stefano, c'era stata una vera e propria persecuzione. La persecuzione si era poi protratta fino al punto che molti si erano dovuti dare alla fuga e erano giunti anche nei territori che favoriranno la nascita di un'altra chiesa significativa delle origini del cristianesimo, come la chiesa di Antiochia. I dodici invece erano sempre rimasti incolumi di fronte a questa situazione. Ora la situazione precipita. Non abbiamo più a che fare solo con le autorità religiose, ma c'è un'autorità politica, il re Erode Agrippa, e non vengono toccati solo dei cristiani anonimi, ma vengono toccati i capi. E il primo che viene decapitato è Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, qui noi dobbiamo fare bene attenzione nell'interpretazione del brano. Nel Nuovo Testamento esistono almeno tre figure di Giacomo, tre Giacomi diversi. Uno è Giacomo, fratello di Giovanni, uno dei due figli di Zebedeo, che è il primo apostolo martire, quello che la Chiesa venera il 25 di luglio. Il secondo Giacomo è il cosiddetto Giacomo il Minore, menzionato anche lui nella lista dei dodici, che viene in genere celebrato nel calendario liturgico romano a maggio, e poi c'è un terzo Giacomo che non appartiene al gruppo dei dodici e che verrà menzionato alla fine del capitolo 12. Il terzo Giacomo è un parente di Gesù e sarà praticamente alla guida della comunità di Gerusalemme dal 42 più o meno fino al 62 d.C., permettendo alla Chiesa di Gerusalemme di essere guidata da una mano saggia, da un'autorità religiosa. Giacomo il fratello del Signore è anche chiamato Giacomo il Giusto, proprio per la sua osservanza alla legge, e garantiva il legame con tutto il gruppo della parentela di Gesù. Quindi esistono tre Giacomi diversi. Quello che qui viene decapitato è praticamente uno degli apostoli, uno dei tre che insieme a Pietro, quindi insieme a Pietro e a Giovanni, quindi Pietro, Giacomo e Giovanni, costituiva il gruppo degli intimi di Gesù. Vedendo che ciò risultava gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Notiamo che l'azione persecutoria nasce da parte del potere politico per ingraziarsi l'autorità religiosa, in un momento molto delicato. Teniamo presente che il re Erode Agrippa I era riuscito a ristabilire parte del regno davidico salomonico, cioè era colui che non governava su un regno spezzato in diverse parti, ma era riuscito a costruire l'unità all'interno del popolo. E il testo conclude dicendo: erano i giorni degli azimi. La scena della persecuzione avviene nel contesto delle celebrazioni pasquali e quindi ripropone sullo sfondo il dramma del mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù. Questo mi permette un aggancio, una riflessione con quanto abbiamo meditato nella liturgia il giorno dell'Assunta, il 15 di agosto, due giorni fa sostanzialmente. La prima lettura della liturgia dell'Assunta presenta quei due simboli che si trovano uno di fronte all'altro, da un lato la donna vestita di sole, dall'altro l'enorme drago rosso. La donna vestita di sole viene scelta dall'autore dell'Apocalisse come icona della Chiesa. Ecco, quella donna vestita di sole è la Chiesa rivestita del mistero della risurrezione di Cristo, con la luna sotto i piedi, che vive già il non ancora, vive il tempo dell'eternità, e sul suo capo una corona di 12 stelle. È la Chiesa che nasce dalle 12 tribù di Israele. Quindi l'espressione della Chiesa che nasce da Israele rappresenta la nuova alleanza, che vive però il mistero del dolore. È colei che porta il Cristo nel mistero delle doglie e del travaglio del parto. Dall'altro lato, di fronte al segno della donna vestita di sole, troviamo l'enorme drago rosso. L'enorme drago rosso è il simbolo dell'impero, del potere politico, dell'impero romano. L'enorme drago rosso che sconvolge il cielo e la terra con i suoi gesti, che domina a sette teste, che richiamano appunto, secondo la simbologia, i colli di Roma, secondo alcuni, e 12 e 10 corna. Le 10 corna dovrebbero rappresentare i singoli imperatori che vanno da Augusto fino all'imperatore regnante nel momento in cui viene scritto il racconto dell'Apocalisse. Ecco, la Chiesa viene presentata in questo spazio di persecuzione, dove da un lato c'è la donna vestita di sole e dall'altro l'enorme drago rosso, quasi a dare una fotografia ai credenti dicendo: guardate che la vita cristiana è una vita che sarà sempre segnata dalla lotta e dalla persecuzione. Come si riesce a sfuggire da questa lotta e da questa persecuzione? Grazie al luogo preparato da Dio per questa donna, e il luogo è il deserto. Nel deserto la donna sarà protetta dal Signore, e nel deserto darà alla luce un figlio che sarà rapito dal Signore perché l'enorme drago rosso non lo possa divorare. Ecco, questa immagine rappresenta l'immagine della comunità cristiana e ben si adatta anche alla Chiesa di Gerusalemme in questo periodo. La Chiesa di Gerusalemme da un lato vede fuggire molti dei suoi membri che fuggono dalla persecuzione e si ritirano in luoghi dove nessuno li possa prendere, vive la pagina della carestia, vive il momento in cui i punti di riferimento della comunità le vengono tolti, ma nonostante questo la pagina che viene descritta dall'Evangelista è una pagina feconda, e vedremo subito dopo perché. È una pagina in cui il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù è vivo e operante. Prima di leggere la seconda parte del testo, che ci racconta come, visto che ciò risultava gradito ai giudei, Erode Agrippa decide di arrestare anche Pietro, facciamo un breve stacco musicale, in modo che ciascuno di voi abbia il tempo di rileggere questi tre versetti. Dopodiché continueremo con la nostra narrazione. Col versetto 4 il racconto continua descrivendo l'arresto di Pietro. Leggiamo ancora il testo. Fece arrestare Pietro e lo fece mettere in carcere, dandolo in custodia a quattro picchetti di quattro guardie ciascuno, con il proposito di farlo giudicare pubblicamente dopo la Pasqua. Mentre dunque Pietro era custodito in carcere, una preghiera incessante si elevava per lui dalla chiesa. si avvicinava il momento in cui Erode lo avrebbe giudicato pubblicamente. In quella notte Pietro dormiva tra due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. All'improvviso un angelo del Signore apparve e una luce splendette nella cella. Colpendo Pietro al fianco lo destò e gli disse: «Alzati in fretta». Le catene gli caddero dalle mani, poi l'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». Così fece. Aggiunse: «Avvolgiti il mantello e seguimi». Uscì dietro a lui senza sapere quello che stava succedendo, grazie all'angelo. Senza sapere se quello che stava succedendo grazie all'angelo fosse vero, poiché credeva di avere una visione. Oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, arrivarono alla porta di ferro che dava sulla strada ed essa si aprì da sola. Uscirono e dopo aver percorso un po' di strada l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, commentò: «Ora capisco che davvero il Signore ha mandato il suo angelo per liberarmi dalla mano di Erode e da quanto il popolo dei giudei si aspettava». Ecco, il racconto dell'arresto e della liberazione dal carcere di Pietro presenta anche qui elementi molto significativi. Prima di tutto Pietro sembra vivere su di sé nei dettagli gli elementi della passione, morte e risurrezione di Gesù. Notiamo prima di tutto l'enorme apparato che serve per mettere in sicurezza questo pericoloso incarcerato. 4 picchetti di 4 guardie ciascuno, quindi 16 persone. Dorme tra due soldati, diventano 18, legato con due catene. Ci sono sentinelle davanti alla porta, c'è un carcere, c'è una cella, ci sono delle porte di sicurezza. Insomma, tutto per una sola persona. Sembra che sia la persona più pericolosa di questo mondo. C'è un'eccedenza di misure di sicurezza nei confronti di Pietro. E in tutto questo colpiscono due cose. Da un lato la totale serenità di Pietro, ci viene detto di Pietro che semplicemente dormiva, e dall'altro un elemento che di fronte a questo enorme pallone gonfiato dei sistemi di sicurezza mette tutto in pericolo, come un ago che si avvicina proprio ad un pallone gonfio, e questo spillo, questo ago che si avvicina al pallone gonfio è la preghiera incessante. Una preghiera incessante si elevava per lui dalla Chiesa. Ecco, questo ci dice anche l'enorme forza della preghiera quando questa preghiera è portata avanti da una comunità fiduciosa e riunita. Tra l'altro è una comunità anche molto povera e spoglia, provata dalla carestia, provata dalla persecuzione, provata dalla paura. Questa comunità ha una preghiera incessante che sale per Pietro, e questa preghiera cosa produce? Produce l'irruzione della risurrezione nel carcere. Inizia l'angelo, c'è la luce che risplende nella cella, c'è il verbo della risurrezione in quell'imperativo alzati, c'è l'invito a mettere gli elementi che caratterizzano l'esodo, la cintura, il sandalo, il mantello. Riprendo quanto stavamo dicendo, che ci sono alcuni elementi che ci dicono come Pietro, in questa situazione di difficoltà, di enormi misure di sicurezza, grazie alla preghiera incessante che si eleva da lui, per lui, da tutta la Chiesa, vive l'esperienza della risurrezione di Cristo. E gli elementi che descrivono la risurrezione sperimentata da Pietro sono l'apparizione dell'angelo del Signore, la luce che splende nella cella, il verbo della risurrezione in quell'imperativo, alzati in fretta, le insegne che vengono messe, che caratterizzano il popolo che esce dalla terra d'Egitto, quindi la cintura, i sandali, il mantello, le porte che si aprono. Tutti questi elementi caratterizzano l'esperienza della liberazione di Pietro, che non è una liberazione come tante altre. Quella liberazione che avviene di notte rende operante il mistero della Pasqua, dimostrando alla Chiesa che il Cristo risorto effettivamente insieme cammina con la sua Chiesa e fa sperimentare alla Chiesa il mistero pasquale, e ponendo soprattutto in continuità il mistero pasquale con l'esodo dall'Egitto. E quelle insegne che dicevamo, mettiti la cintura, legati i sandali, avvolgiti dal mantello, ricordano la liberazione dall'Egitto. Anche allora il comando dell'angelo della notte pasquale invitava gli ebrei a mangiare l'agnello con i fianchi cinti e i sandali ai piedi. Quindi c'è una sorta di richiamo a quello che era stato l'esodo dall'Egitto. In questa prigionia e in questa liberazione di Pietro si attua un passaggio, si attua una Pasqua anche per la comunità cristiana. Lo vedremo alla fine del capitolo 12, la comunità di Gerusalemme entra in una nuova fase della sua storia e insieme a lei tutta la Chiesa, tutta la comunità cristiana entra in una nuova fase della sua storia. Vorrei attirare la vostra attenzione su un piccolo dettaglio della prigionia di Pietro che ci fa capire la logica particolare di Dio nell'intervenire a favore dei suoi. Al versetto 6, quando subito dopo che è stata descritta l'incarcerazione di Pietro, viene detto: si avvicinava il momento in cui Erode lo avrebbe giudicato pubblicamente, in quella notte, eccetera, eccetera. Pietro viene incarcerato nei giorni degli azzini e aspetta a giustiziare Pietro che siano terminate le festività pasquali, per una sorta di rispetto verso quelle autorità religiose che lui vuole ringraziarsi. Ora, Dio aspetta per intervenire la fine della festività pasquale. Nell'ultima notte, cioè alla fine della settimana degli azimi, si verifica l'evento straordinario della liberazione. Assistiamo, in altre parole, un po' a come se Dio voglia mettere alla prova la sua comunità spingendola fino all'estremo limite massimo. La prova dura fino al punto quasi in cui la comunità non ha più spazio per sperare altro. Dio interviene quando tutto non sembra più possibile, perché è il Dio a cui nulla è impossibile. È un po' come agli inizi del racconto nel Vangelo dell'infanzia. Se noi pensiamo a un racconto affine che c'è nel primo Vangelo, nel momento dell'annunciazione dell'angelo a Gabriele, dell'annunciazione all'angelo Gabriele a Maria, notiamo che viene lasciato tutto in sospeso per Giuseppe fino al punto in cui Giuseppe decide di rimandare la sua futura sposa in segreto a casa sua. Quando ha deciso questo nel suo cuore, ecco, in sogno gli appare l'angelo a Giuseppe e gli dice: non temere Giuseppe, perché quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Solo in quel momento vengono sciolti i dubbi a Giuseppe. È un po' come se la logica di Dio sia quella di spingere il suo fedele fino all'estremo limite. In fondo, se guardiamo, la storia biblica è piena di esempi simili. Pensiamo al caso di Abramo sul Monte Moria, lì viene spinto fino all'estremo limite. Pensiamo a Elia che giunge fino al momento estremo della depressione, pensiamo ai giudici. In questi giorni nella liturgia stiamo proprio leggendo le vicende dei giudici, quante volte i giudici sono spinti fino all'estremo limite di se stessi. Dio interviene solo quando nulla sembra più possibile e si rivela come il Dio dell'impossibile. Lì il popolo, lì il singolo fedele fa l'esperienza della Pasqua, proprio come Pietro in questi versetti. Ecco, lasciamo un altro breve stacco musicale prima di continuare la nostra lettura e vedere cosa succede dopo, cosa succede in seguito alla liberazione di Pietro. Vedremo che la notizia della liberazione di Pietro produce subbuglio nella comunità cristiana, ma non solo nella comunità cristiana, anche nella casa di Erode. Ma lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi abbia modo di rileggere questi versetti. Dopo la liberazione di Pietro, il racconto continua e ci dice quello che succede nella comunità cristiana. Ascoltiamo il testo. Dopo aver riflettuto, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molte persone erano radunate in preghiera. Bussò al battente del portone d'ingresso, una fanciulla di nome Erode si accostò per aprire. Conosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che davanti al portone c'era Pietro. Quelli le dissero: «Sei impazzita!» Ma ella insisteva che era proprio così, allora dissero: «Sarà il suo angelo!» Intanto Pietro continuava a bussare. Gli aprirono, lo videro e rimasero di stucco. Pietro, fatto loro il segno con la mano di non tacere, raccontò come il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere e aggiunse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Poi uscì e si diresse verso un altro luogo. Allora, notiamo che all'indomani della liberazione di Pietro, nell'incontro con la comunità cristiana, a parte l'ironia che caratterizza questo incontro, dove tra l'altro ci sono ancora degli evidenti elementi di parallelismo con la risurrezione di Gesù. Gesù non viene riconosciuto subito, Pietro non viene riconosciuto subito. Quello però che mi preme sottolineare è l'affiorare subito, all'indomani della liberazione di Pietro, di tutta una serie di figure che caratterizzeranno il futuro della Chiesa di Gerusalemme, quel futuro che ora si sta aprendo. La prima figura che emerge è questo Giovanni, soprannominato Marco. Il legame di Marco con Pietro è evidente dal punto di vista della tradizione. La tradizione individua questo Giovanni, soprannominato Marco, con l'autore del secondo Vangelo, del Vangelo di Marco, e lo identifica con il cosiddetto, fra virgolette, segretario di Pietro, colui che avrebbe attinto da Pietro la testimonianza su quello che i discepoli avevano vissuto nel discepolato con il Maestro e nello stesso tempo anche dai suoi insegnamenti, dal suo mistero pasquale, mettendolo poi per iscritto. Marco, sappiamo, avrà un ruolo fondamentale in quella che è la pagina successiva della comunità cristiana. Sarà a stretto contatto con Barnaba e con Saulo, con questi anche, soprattutto con il secondo, si scontrerà e avrà un rapporto particolare con Pietro. Quindi è una figura decisiva di quelle che sono le origini cristiane. Secondo elemento importante, la casa di Maria. Qual è questa casa di Maria? Maria in questo caso non è la madre di Gesù, ma la madre di Giovanni Marco. La casa di Maria, che è questo luogo caratterizzato dalla preghiera nel cuore della notte per Pietro, una preghiera che era talmente confidente che quando gli dicono che Pietro è stato liberato non ci credono, sembra essere identificato dalla comunità cristiana con il Cenacolo, il luogo anche della Pentecoste della prima comunità cristiana, ed è un luogo chiave perché ci fa capire come la comunità cristiana può continuare il suo cammino non solo grazie a figure illuminate dallo Spirito, ma anche grazie a quei fondamenti che sono rappresentati dalla preghiera, incentrata sulla parola e sull'Eucaristia, i due elementi fondamentali della prima comunità cristiana. Terzo elemento che affiora dal testo è quel richiamo all'angelo. Quando Pietro bussa al portone, prima dicono a Rode, alla schiava, sei impazzita, e poi dicono sarà il suo angelo. E questa è una piccola testimonianza che ci dice come fin dagli inizi della comunità cristiana c'era questa fiducia nell'angelo custode. E si riteneva che ogni persona avesse in cielo il corrispettivo della propria persona in terra, rappresentato dall'angelo, cioè l'angelo che si presenta davanti a Dio ha le stesse fattezze della persona che custodisce in terra, quindi l'angelo di ciascuno di noi, stando alla visione che era diffusa nel primo secolo, avrebbe lo stesso volto nostro e lo presenta Dio pregando per noi, custodendoci, proteggendoci, ispirandoci durante il nostro cammino. Altro elemento importante, altra figura che affiora da questo racconto è la schiava. Questa schiava di nome Rode, questa fanciulla di nome Rode che si accosta per aprire. Questo ci fa capire come all'interno della comunità cristiana già vigeva una certa comunione, per cui non c'era più né schiavo né libero, né giudeo né greco, né uomo né donna, ma tutti avevano un'unica dignità all'interno della comunità cristiana. E infine l'ultima figura importante che affiora dal brano è quella evocata da Pietro. Pietro, facendo segno con la mano di tacere, proprio per evitare che la situazione fosse pericolosa per tutti, dice: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e si diresse verso un altro luogo. Chi è il Giacomo di cui parla qui? Non è sicuramente il fratello di Giovanni, perché abbiamo saputo all'inizio del capitolo che è stato decapitato. Quindi il Giacomo e i fratelli a cui fa riferimento è sicuramente quello che succede nella guida della comunità di Gerusalemme, che succede a Pietro. È il Giacomo, fratello del Signore, di stirpe vicino agli ambienti del Tempio, soprannominato il Giusto, guiderà la Chiesa di Gerusalemme fino al 62 d.C., per circa 20 anni. Appartiene ai familiari di Gesù. Quindi fate sapere queste cose a Giacomo e i fratelli, potrebbe intendersi a Giacomo e agli altri credenti della comunità, ma potrebbe anche intendere a Giacomo e a quelli della mia stretta parentela. Il significato potrebbe essere duplice. Quello che possiamo sintetizzare raccogliendo da questo primo incontro di Pietro al momento della liberazione è che siamo proprio in un momento di svolta, dove affiorano delle figure: Giacomo, Marco, Maria con la sua casa, testimonianza di una chiesa domestica, la fanciulla che va a aprire alla porta, emergono delle figure che saranno decisive nello sviluppo dell'identità della comunità cristiana. Pietro, da parte sua, si diresse verso un altro luogo. Proprio per difendere la propria vita, Pietro lascerà Gerusalemme e si rifugierà in un altro luogo. Non ci viene detto quale luogo sia. Lo ritroveremo prima ad Antiochia e poi a Roma, quindi è probabile che sia uno di questi due luoghi verso cui Pietro si dirige subito. Non restano però sorpresi, dicevamo prima, solo i membri della comunità cristiana, resta sorpreso ovviamente anche il re che doveva giustiziare Pietro. In altre parole, resta sorpreso anche il re Agrippa. Leggiamo il testo come continua nei versetti dal 18 fino al 23. Fattosi giorno, c'era non poco subbuglio tra i soldati, Cosa era successo a Pietro? Erode, intanto cercatolo e non avendolo trovato, interrogò le guardie e comandò che fossero giustiziate. Poi dalla Giudea scese a Cesarea, dove si trattenne. Egli era fortemente irritato con gli abitanti di Tiro e di Sidone, ma essi di comune accordo si presentarono a lui e, dopo aver convinto Blasto, prefetto della Camera del Re, chiesero la pace, visto che il loro paese riceveva viveri dal territorio del re. Nel giorno stabilito Erode, vestito del manto regale, seduto sul trono, teneva loro un'allocuzione, mentre il popolo acclamava «Voce di un Dio, non di un uomo!». All'improvviso però un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva reso gloria a Dio, e morì divorato dai vermi. Ecco, il secondo subbuglio viene negli ambiti del potere. E notiamo come il potere viene descritto con termini particolarmente forti, perché il potere, chi ha il potere, è un portatore di morte, sostanzialmente. Erode Agrippa voleva mettere a morte Pietro, non ci riesce. Nel momento in cui scopre che Pietro è scappato, senza appurare ovviamente i fatti, perché ai miracoli Erode Agrippa probabilmente non crede, fa giustiziare le guardie. Se calcoliamo il numero di guardie coinvolte, sono almeno una ventina di persone che vengono messe a morte. Poi c'è la questione del rapporto con gli abitanti di Tiro e Sidone. Come mai il re ce l'aveva con gli abitanti di Tiro e Sidone? Il re Agrippa, noi sappiamo, risiedeva a Cesarea. Cesarea era un grande porto, un grande centro commerciale, e i Tiro e Sidone erano due porti che rappresentavano un punto di rivalità con il porto di Cesarea, a cui Erode Agrippa teneva in modo particolare. Quindi gli abitanti di Tiro e Sidone cercano, grazie alla solidarietà di un membro vicino a re Erode Agrippa, di ingraziarsi il re, visto che ricevono i suoi viveri, e quindi probabilmente re Erode Agrippa aveva chiuso i rubinetti per questa rivalità, e quindi si rendono presenti a Cesarea mentre il re tiene questa grande allocuzione, lo elogiano, ovviamente sono tutti elogi opportunistici per ottenere quello che loro vogliono, per ottenere altri viveri, e in questo contesto la loro allocuzione, al posto di essere una cosa che porta vita al re, gli provoca la morte. Perché provoca la morte? Perché viene considerato dall'autore sacro, da chi scrive questo racconto, come una bestemmia fatta a Dio. Dio viene scambiato con Erode Agrippa, dal momento che si dice voce di un Dio e non di un uomo. Ed ecco l'angelo intervenire, questa volta non per liberare Erode, ma per liberare la Chiesa dal suo persecutore. E quindi l'angelo che aveva liberato Pietro interviene provocando la morte di Erode. La descrizione della morte di Erode non deve essere presa alla lettera al 100%, viene descritta la morte di Erode Agrippa secondo lo schema della morte dei bestemmiatori nella tradizione biblica. Tra l'altro noi abbiamo un altro racconto della morte di questo re, che avviene comunque in circostanze molto molto molto tristi, nel testo delle antichità giudaiche scritte dallo storico Flavio Giuseppe, lo storico giudeo romano, un giudeo che era passato all'interno del potere romano e che scrive non solo le antichità giudaiche ma molti aspetti di quella che era la storia della dominazione romana nella terra dei giudei, e quindi la sua testimonianza è particolarmente significativa. Il subbuglio, quindi notiamo due elementi diversi nella reazione a quella che è stata la prigionia di Pietro e la sua liberazione. La parte che doveva essere segnata dalla morte, quindi Pietro e la Chiesa, diventa la parte segnata dalla vitalità per eccellenza, con l'intervento dell'angelo che porta vita. Coloro che hanno il potere e che sembrano decidere della vita degli altri, alla fine sono coloro che restano prigionieri di se stessi, delle proprie false convinzioni, portano morte e restano vittime della morte. Il potere genera e dà morte, mentre coloro che si affidano al Signore generano e danno vita. Ecco, il testo in questo è molto chiaro e permette di notare come in quella lotta evocata all'inizio tra la donna vestita di sole e l'enorme drago rosso, alla fine Dio interviene per proteggere i suoi, per custodire i suoi. E arriviamo alla fine del nostro testo, del testo su cui oggi ci volevamo soffermare. Gli ultimi due versetti. Il testo dice: la parola di Dio intanto cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo, dopo aver consegnato la loro colletta a Gerusalemme, ritornarono ad Antiochia, portando con sé Giovanni, soprannominato Marco. E qui la storia degli Atti degli Apostoli continua. La volta scorsa era terminata mostrando Saulo e Barnaba che partivano per portare un aiuto economico alla Chiesa di Gerusalemme provata dalla carestia. Il capitolo 12 ci ha detto che la prova non era solo la carestia, ma c'è anche la prova della persecuzione. Ed ora il testo riprende dicendo che Barnaba e Saulo sono stati anche loro vicini a Gerusalemme in questo momento di grande difficoltà, ma ripartono portando con sé Marco. E quel Marco vicino a Barnaba e Saulo sarà l'inizio di una nuova pagina, quella che vedremo la volta prossima, il mese prossimo, in settembre, quando la Chiesa si apre allo slancio missionario e l'annuncio comincia a diffondersi in tutte le terre dell'impero romano. Ciò che le autorità religiose prima e le autorità politiche poi, nel capitolo 12, hanno cercato di soffocare, ormai è fuori del loro controllo. La potenza del risorto è veramente operante nella prima comunità. Non solo è riuscita a spalancare il sepolcro lasciandolo vuoto, ma riesce a spezzare tutte quelle forme di catene e di prigionie che vorrebbero impedire alla parola di diffondersi. La parola di Dio continua a crescere e a moltiplicarsi, perché la parola di Dio è sospinta non tanto dagli apostoli, ma dallo Spirito che guida gli apostoli. A questi è solo chiesta fiducia piena e radicamento nella parola e nell'Eucaristia, che sono i due fondamenti della loro personalità autentica. Ecco, cari ascoltatori, quello che racconta il capitolo 12 degli Atti degli Apostoli. Entriamo adesso nella seconda parte della nostra trasmissione, cioè gli altri 45 minuti. Come sapete, sempre la nostra modalità di riflessione è condotta in due parti. C'è una parte dove io tengo una riflessione, una condivisione degli spunti che sono emersi dalla mia meditazione su questo brano, e c'è la parte dedicata ai vostri interventi, quindi brevi riflessioni, brevi domande, in modo che quanto può essere sfuggito alla mia lettura può essere approfondito o colto da un altro punto di vista, da un altro aspetto. Come sapete, do molta importanza a questa seconda parte, proprio perché attorno alla parola di Dio non c'è un maestro e degli ascoltatori, ma siamo tutti discepoli dell'unico vero maestro, che è il Signore che parla attraverso questa parola. Quindi attendo fiducioso i vostri interventi e le vostre domande, e dalla regia riceverete alcune indicazioni proprio per contattarmi in questa nostra puntata. Grazie. Thank you. padre. Buonasera, con chi parlo? Sono Salvatore, telefono dalla Sicilia, da Sant'Alessio Siculo, provincia di Messina. Intanto grazie per la sua competenza e la sua esposizione, complimenti anche per la chiarezza e soprattutto per quanto riguarda l'analisi del testo. Le volevo chiedere, quanto è la sua esperienza, alla sua conoscenza, ai suoi studi, si può fare un confronto tra la liberazione di Pietro adoperata dalla preghiera della comunità di allora e la preghiera della comunità di oggi, dei cristiani, nei confronti dei cristiani perseguitati? Grazie. Allora, grazie Salvatore per questa tua domanda. Effettivamente questa pagina si presenta come una delle pagine che possono illuminare la situazione di oggi. Non solo questa, ma anche la pagina citata all'inizio, quella della lotta tra la donna e l'enorme drago rosso, che abbiamo meditato proprio il giorno dell'Assunta. Noi spesso pensiamo o abbiamo un'idea della nostra identità cristiana come di un qualcosa di molto sereno, molto pacifico, ma fin dall'inizio i testi che riguardano le origini cristiane sono molto austeri nel dirci che la vita cristiana è una vita segnata dalla lotta. Questo vale per la comunità cristiana di Gerusalemme agli inizi della sua esperienza, questo vale per gli inizi della comunità, delle comunità fondate da Paolo. All'interno degli Atti degli Apostoli noi abbiamo un duplice racconto di prigionia e liberazione fatto sullo stesso schema. C'è il racconto di Pietro al capitolo 12 e più avanti avremo modo di vedere come la stessa scena con gli stessi elementi si ripropone a Paolo, come se tutti coloro che vivono l'annuncio del Vangelo si trovino prima o poi esposti al mistero della lotta, della persecuzione. Se Pietro fa da fondamento, si può dire, alla Chiesa più vicino a Gerusalemme, Paolo fa da riferimento per la Chiesa rivolta ai gentili, quando arriviamo a Giovanni, che è il riferimento della Chiesa che si sviluppa in Asia Minore, Giovanni è l'autore dell'Apocalisse, quindi anche lui ritorna sullo stesso schema, sullo schema della persecuzione. Penso che queste pagine possano far riflettere noi che viviamo, una fede che non è esposta alla prova di una persecuzione concreta, fisica, ma ci mette anche in guardia, perché la persecuzione può avere molti, molti risvolti, e quello che il Signore chiede nel momento della persecuzione non è il giudizio sul persecutore, ma piuttosto un radicamento maggiore nella propria identità. Quello che è significativo è che quando noi pensiamo alle origini cristiane, soprattutto al momento in cui la Chiesa è uscì da quella che era la persecuzione violenta dalle autorità religiose o da parte degli imperatori romani di turno, quando nel 313 e nel 325 venne riconosciuta pubblicamente dall'impero, molti cristiani rifiutarono quell'accoglienza, anche in quel caso opportunista da parte dell'impero, e si ritirarono nel deserto, prendendo alla lettera quella pagina dell'Apocalisse, per attestare davanti agli altri credenti che ci può essere anche una sorta di persecuzione bianca, che è data dall'assumere senza rendersi conto quella che è la logica del mondo e non essere più segno luminoso, non essere più segno di contraddizione, non essere più lievito all'interno della pasta. Grazie Salvatore, che dalla Sicilia hai fatto giustamente un rilievo importante per tutti, grazie di cuore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Franco, ecco, io vorrei fare una domanda a proposito appunto dell'angelo, insomma, ecco, che chiaramente è stato, insomma, liberato Pietro dalle catene. Ecco, io a volte in questa vita mi domando sempre, ma dov'è l'angelo custode quando una persona magari viene ammazzata da un'altra persona? Dov'è la sua presenza dell'angelo quando succedono queste cose? Cioè, l'angelo non potrebbe intervenire sulle persone cattive che fanno del male, che magari vengono ammazzate perché magari lavorano in un negozio, come è successo ultimamente, marito e moglie che sono stati ammazzati in un negozio, insomma, di pizzeria, insomma, che cos'era. Cioè, dov'è l'angelo custode? È possibile che l'angelo custode non possa intervenire sulle vicende umane, sui bambini che vengono ammazzati, rapiti? Questo che io non riesco a spiegare, ma esiste veramente questo angelo oppure è soltanto una leggenda? È questo che io mi domando io, perché l'angelo noi lo preghiamo sempre, lo interpelliamo, ma più ho fatto caso che noi più preghiamo e più le cose vanno peggio, invece di andare meglio. Allora la preghiera a questo punto non serve a niente, neanche pregare l'angelo custode a questo punto. Che senso avrebbe, insomma, pregare l'angelo custode se poi magari è soltanto una leggenda? Perché adesso siamo sinceri, padre, ma chi ha visto mai l'angelo? Chi ha visto mai Dio? Non potrebbe essere anche Dio una leggenda? Perché nessuno, noi come testimonianza abbiamo soltanto un libro, ma Cristo non l'abbiamo mai visto. Ci racconta che è stato in croce, però se è vero che lui ha sofferto, perché permette sempre la sofferenza? Gente che addirittura deve arrivare all'eutanasia per liberarsi dal dolore. Allora la sua presenza dove sta? Dove sta la presenza dell'angelo custode? Questo che io sono anni che io e mia moglie, insomma, ci facciamo questa domanda. La ringrazio, Franco, perché penso che quanto lei ha espresso nel suo intervento dia voce anche a tante domande che sotto sotto molte persone portano dentro di sé. Ovviamente nello spazio limitato che abbiamo non potrò farle spiegazione convincente, ma chiedo allo Spirito Santo di aiutarmi a dire quelle due o tre parole che possano aiutarla a riflettere, aiutare lei e quanti portano dentro di sé questa domanda e poi a continuare nella preghiera la riflessione. Io sono convinto che ad alcune domande le risposte si trovano solo in un clima di preghiera fiduciosa. Va però sgombrato il campo da alcuni fraintendimenti di fondo, cioè prima di tutto Dio non pone accanto a noi degli angeli custodi come una sorta di armatura di sicurezza. Gli angeli non si sostituiscono alla libertà dell'uomo e alla responsabilità dell'uomo. E noi sappiamo che la nostra responsabilità è legata alla responsabilità degli altri. È ovvio che lei si chiede, ma come l'angelo ha liberato Pietro, non potrebbe liberare anche o proteggere chi viene ammazzato mentre esercita tranquillamente e correttamente il suo lavoro? Non potrebbe proteggere chi sta guidando con correttezza e viene travolto da una macchina a grande velocità al casello di Ravenna? Cioè le sue domande, però potremmo anche dire perché l'angelo ha liberato Pietro e non ha liberato Giacomo che è stato decapitato? Cioè le domande sono domande a 360 gradi, sono domande più grandi di noi. Certo è una cosa, Dio non si sostituisce alla nostra responsabilità, ma assicura la sua presenza nei singoli momenti che ciascuno di noi sta vivendo. Dio era presente con il suo angelo anche nel momento in cui Giacomo veniva decapitato, dandogli la forza di affrontare il martirio, come è presente nel momento in cui accompagna Pietro alla liberazione, aiutandolo a percorrere un itinerario totalmente nuovo che lo obbliga ad andare in esilio, a lasciare la sua comunità. E l'angelo assume la forma delle nostre mani, dei nostri volti, quando le nostre mani sono accoglienti. Pensiamo ad esempio a questa situazione di emergenza di coloro che fuggono da paesi che vivono l'esperienza del dolore, della guerra, e cercano nelle nostre terre uno spazio di pace, uno spazio di maggiore serenità. Chi accoglie con le parole e con i gesti concreti queste persone è la mano lunga dei loro angeli custodi. Però dobbiamo tenere presente che quella lotta tra il bene e il male, tra la donna e il drago rosso, caratterizza la vita quotidiana finché noi siamo su questa terra. Mi permetto anche di sgombrare il campo da un'altra cosa, da un'altra sua affermazione, no? Lei diceva: ma come, anche Dio, Gesù, non potrebbe essere una pura leggenda? Noi in fondo abbiamo solo i suoi scritti, non l'abbiamo mai visto. Ecco, su questo direi che l'annuncio forte del cristianesimo è proprio il contrario. L'annuncio forte del cristianesimo rispetto ad altre espressioni di fede, come quella ebraica o come quella islamica, nasce dalla pretesa corretta di fede che il verbo, quindi la parola scritta o la parola detta, il verbo si è fatto carne, ha assunto la natura umana, la condizione umana in tutto tranne il peccato. Il Cristo è il Dio che si fa carne, assumendo su di sé ciò anche che la violenza dell'uomo produce, redimendola, riscattandola dall'interno. Cristo, assumendo la condizione umana e vivendola fino al sepolcro, fino alla violenza, fino alla morte, fino alla tomba, libera tutte queste esperienze da. E se lei va a leggere il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, noterà, caro Franco, che non è vero che nessuno l'ha mai visto. La prima lettera ai Corinzi fa l'elenco di tutte le persone che hanno sperimentato il risorto, e non sono poche. Non sono poche. Come noi possiamo dire oggi: sì, ma io il Cristo non lo vedo più risorto, dov'è il Cristo che io posso toccare? Dov'è il Cristo che come Tommaso gli posso? Ma mi viene da dire, proviamo a guardarci intorno e a guardare attorno a noi tutte quelle persone in cui Cristo continua a prendere forma oggi. Vede, caro Franco, l'essere cristiano non significa fare delle buone opere o osservare i comandamenti. Queste cose vanno bene, però rischiano di diventare uno sforzo nostro. Essere cristiano significa assumere, permettere al Cristo di prendere forma in noi, permettere a Gesù risorto di continuare a parlare con le mie parole, continuare a esprimere misericordia attraverso i miei gesti, continuare a incontrare le persone attraverso la mia vita quotidiana. Ecco, se noi apriamo gli occhi attorno a noi, vediamo tante persone in cui il Cristo ha già preso forma, perché queste persone hanno lasciato operare in loro lo Spirito, si sono lasciati guidare dall'azione di Dio. E queste persone sono quelle, i tanti che sono stati canonizzati, beatificati, ma anche i tanti che senza forme di canonizzazione, senza forme di beatificazione, hanno vissuto e vivono il Vangelo tale e quale, sine glossa, direbbe qualcuno, cioè nella radicalità di queste pagine. E lì si vede perché in questi casi queste vite sono sempre vite feconde, che segnano lo spazio vitale dove loro passano. Suggerisco così molto semplicemente alla sua attenzione un testo, caro Franco, è il testo scritto da un ragazzo che è morto poco più che ventenne a motivo di un tumore osseo. Il libro si intitola Spaccato in due. Ecco, provi leggendo quelle pagine a notare come il Cristo può continuare ad essere presente con la sua forza, con la sua sapienza, con la sua forza di riscatto anche in queste esperienze. La ringrazio tanto per la sua domanda, perché sono proprio convinto che lei ha interpretato, ha dato voce alle domande che molti portano dentro di sé. Grazie Franco. Pronto? Pronto, buonasera, sono Giuliano da Reggio Emilia. Sì, mi dica. Ecco, lei ha detto che ci sono tre Giacomo. E io le dico, io ho in mente Giacomo il maggiore, che è stato ucciso, Giacomo il minore, che ha scritto la lettera che troviamo nella Bibbia, e poi Giacomo figlio di Maria di Cleofa. Io ho in mente questi tre Giacomi, mi sbaglio? Allora, giustamente anche lei ha posto una domanda importante, no? Dicevo, i Giacomi che noi troviamo attestati nel Nuovo Testamento dovrebbero essere tre, dico dovrebbero perché ci vuole sempre il condizionale, secondo alcuni studiosi ci sono cinque Giacomi diversi, alcuni dicono addirittura sei. Normalmente cosa succede? Succede che nella tradizione cristiana le figure legate a Giacomo sono state un pochino fuse insieme. Si è sempre distinto Giacomo di Zebedeo, quello che è il primo apostolo martire, quello di cui abbiamo sentito parlare oggi, mentre si sono fusi insieme Giacomo il minore, il figlio di Cleofa, e Giacomo di Gerusalemme. Tanto vero che noi li celebriamo nella festa di maggio, Giacomo il Maggiore lo celebriamo il 25 luglio, l'altro invece a maggio, se non sbaglio il 3 di maggio, quindi noi abbiamo solo due festività. Nella festività di maggio noi fondiamo due figure diverse, fondiamo la figura di Giacomo il Minore, il piccolo, così menzionato nell'elenco dei 12 che apparteneva al gruppo dei 12, e Giacomo di Gerusalemme. Chi dei due, di questi due, abbia scritto la lettera di Giacomo probabilmente è il Giacomo di Gerusalemme. Va però precisato che il Giacomo di Gerusalemme non è uno dei 12, è uno dei parenti di Gesù, che si è convertito all'annuncio cristiano solo dopo la risurrezione di Gesù e ha aderito a lui. In questi noi abbiamo proprio nella letteratura apocrifa dei testi che raccontano la sua storia. E perché li distinguo? La distinzione nasce all'interno dei testi del Nuovo Testamento ed esattamente nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo, quando racconta gli incontri del risorto nelle apparizioni, distingue i 12 da Giacomo di Gerusalemme, dicendo che non era uno dei 12, lo distingue dal gruppo dei 12, e dopo Giacomo parla di sé. Evidentemente è proprio la figura che viene menzionata nel capitolo 12 che prende poi in mano la conduzione della Chiesa di Gerusalemme, ed è colui che proprio per la sua vicinanza al Tempio, Giacomo il Giusto, permette la mediazione con le autorità giudaiche, in modo che la persecuzione nei confronti della comunità cristiana possa allentarsi un poco. Infatti la comunità di Gerusalemme riuscirà a vivere un periodo di relativa tranquillità fin quando nel 62 anche Giacomo di Gerusalemme verrà martirizzato. Si tenga presente un altro elemento importante: nelle chiese d'Oriente per queste tre figure esistono tre feste liturgiche diverse. Non ricordo la terza in che data è posta, però so che luglio, maggio e poi una terza data accompagnano i tre Giacomi diversi all'interno del calendario della Chiesa d'Oriente. Grazie quindi, signor Giuliano, per il suo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Ascoltando, sono Edoardo, chiamo da Roma. Sì. Stavo ascoltando la sua interessante esposizione quando mi è arrivata una telefonata e mi ha bloccato mi è rimasto questo dubbio. Ossia, lei ha detto che Giovanni, soprannominato Marco, ma Marco l'Evangelista? Va bene, le rispondo, anche questa è una domanda che permette proprio di approfondire quanto ci siamo detti. Allora sì, al versetto 12 del capitolo 12 degli Atti degli Apostoli ci viene detto che Pietro, dopo essere stato liberato, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molte persone erano radunate in preghiera. Allora, chi è questo Giovanni soprannominato Marco? La tradizione lo identifica con Marco l'Evangelista. La casa dove si sarebbe celebrata l'ultima cena, secondo sempre la tradizione, sarebbe proprio la casa di sua madre, la sua casa. E questo spiegherebbe, secondo alcuni, anche quel dettaglio particolare al secondo Vangelo, nel momento del racconto dell'arresto di Gesù, dove ci viene detto che un giovane seguiva Gesù nel momento dell'arresto, le guardie lo vedono, cercano di afferrarlo e lui lascia il lenzuolo, la sindon di cui era rivestito e fugge via nudo. Ora alcuni dicono, vedete, questo non è altro che Giovanni Marco. Giovanni Marco era quello dove Gesù aveva fatto l'ultima cena. Era rimasto a casa, era andato a dormire, a un certo punto qualcuno gli porta la notizia che le guardie sono andate al Getsemani per arrestare Gesù, in fretta e furia si alza mettendo quello che aveva indosso e si reca al podere del Getsemani e ritengono che anche il podere del Getsemani apparteneva alla casa di Maria, questa famiglia quindi doveva essere anche un pochino facoltosa, alla casa di Maria, e lì avrebbero tentato di arrestarlo, ma lui fugge via nudo. Visto che questo dettaglio lo si ritrova solo nel Vangelo di Marco e ha tutto un certo sapore autobiografico, alcuni fanno tutti questi collegamenti. Quindi, secondo la tradizione, il Giovanni soprannominato Marco è questo. Perché si dice che è questo? Perché subito dopo, alla fine del capitolo, ci viene detto che Barnaba e Saulo, dopo aver consegnato loro la colletta a Gerusalemme, ritornarono portando con sé Giovanni, soprannominato Marco, quindi lo portano con sé nella missione. E questo Giovanni, soprannominato Marco, poco dopo, al capitolo 13, farà retrofront e verrà chiamato solo Marco. Quindi questo Marco che fa retrofronte e che quindi vive l'esperienza dello smacco sembra essere proprio lo stesso che ha lo smacco da così tanto rilievo nel suo Vangelo. Non c'è nessuno dei quattro Vangeli che sottolinei così tanto il fallimento degli apostoli e di coloro che seguono Gesù come il Vangelo di Marco. E qui sembra che questo derivi un pochino dall'esperienza che l'evangelista stesso ha fatto sulla propria pelle con questo smacco del capitolo 13. Quindi, caro signor Giorgio, mi sembra proprio che il Giovanni soprannominato Marco sia l'evangelista, come la tradizione dice. Ovviamente resta sempre un margine di incertezza su queste cose, però non penso incida più di tanto sul nostro cammino cristiano. Grazie di cuore per la sua domanda. Pronto? C'è qualche altro ascoltatore in linea? Pronto? Oh, buonasera, pronto? Mi dica. Buonasera, senta, sono Anna da Roma e volevo riallacciarmi a quel discorso che ha fatto quel signore Franco, no? Del fatto che la leggenda, le cose. Io ho attraversato un periodo molto brutto della mia vita perché ho due figli, mi è morto mio marito, però nonostante tutto io ho sempre pregato e sembra come se mi viene croce su croce, però comunque il Signore mi dà la forza, ci dà la forza per affrontare tutto e proprio ci mette alla prova per vedere quanto noi siamo fedeli a Lui. non c'è bisogno di leggere tanto, di sapere, di affidarsi proprio alla sua misericordia. È come se ci dà un'anestesia per capire che c'è il problema ma non sentire più il dolore. Grazie. Grazie Anna per la tua testimonianza. Ecco, noi ovviamente cerchiamo di tradurre con un linguaggio umano queste esperienze, no? Quando noi diciamo Dio ci mette alla prova, usiamo un linguaggio umano, usiamo delle categorie nostre. Io penso che quando saremo al cospetto di Dio, quando saremo nel regno dell'eternità, avremo ecco una visione, come dire, molto più approfondita ovviamente del mistero di Dio. Questo Dio che ci mette alla prova non è tanto simpatico, più che mettere alla prova, forse il Signore cammina accanto a noi nelle prove che la nostra condizione umana, che è segnata dalla precarietà e dalla fragilità dell'esistenza umana, a cui la precarietà e la fragilità dell'esistenza umana ci espone. Ecco, ovviamente ognuno vede le prove che il Signore chiede a lui di vivere, ma per quanto il mio ministero me lo concede, posso assicurare che non esistono vite non esposte alla prova, non esposte al mistero della precarietà e della fragilità della condizione umana. Prima o poi la lotta bussa alla porta e tutti la dobbiamo affrontare. Ecco, la grande risorsa in questo momento della lotta, che può assumere i nomi più diversi, è il fatto di, come dire, custodire la certezza che nella prova nessuno di noi entra da solo. Il Signore affronta quella prova insieme a noi, perché Lui prima di noi l'ha abitata e le ha attribuito un significato. Laddove questo diventa faticoso, la seconda risorsa è rappresentata dalla comunità. Avere attorno a sé, imparare a ringraziare il Signore per quelle relazioni che ci danno respiro, che ci strappano un sorriso, che ci donano un tocco di serenità. Il cristiano per eccellenza dovrebbe essere un costruttore di relazioni, perché sono quelle che assicurano il presente e il futuro, sono la nostra scuola di vita. E poi accanto a questi due elementi una grande risorsa è rappresentata dalla presenza tangibile del Signore nella vita sacramentale, la presenza nella parola di Dio, la presenza nell'Eucarestia, la presenza nel sacramento dell'unzione che nel momento della malattia diventa una risorsa forte. Ecco, questo come dire, completare la lettura della nostra ascoltatrice. Il Signore non mette solo alla prova, ma vive la prova insieme a noi. Ovviamente il nostro modo di leggere queste esperienze porta con sé i limiti delle categorie umane e del dire umano, quindi c'è sempre un qualcosa che sfugge o rischia di banalizzare esperienze che sono di un certo peso e che ognuno vive in modo diverso. Grazie di cuore Anna per il tuo intervento. Pronto? Sì, pronto. Buonasera padre. Buonasera. Sono Carlo e telefono da Arezzo. Senta, un altro chiarimento su Giovanni detto Marco e la sua famiglia. E quando Gesù si appresta a celebrare la Pasqua, no, e gli apostoli, mi sembra, ora cito un po' a braccio, chiedono cosa dobbiamo fare, insomma, ecco, quali sono i preparativi. Allora Gesù li manda, dice andate in città da una certa persona e ditegli che appunto la Pasqua sarà preparata, cioè voglio passare da lui la Pasqua. Ecco, ma se si trattava quindi del cenacolo della mamma di Giovanni detto Marco, come mai sembra che gli apostoli non la conoscano, essendo appunto sia la mamma che Giovanni Marco dei discepoli del Signore? Ecco, volevo magari, se è possibile, qualche ulteriore precisazione su questa cosa. La ringrazio e la ascolto per radio. Buonasera padre. Grazie di cuore Carlo per la tua domanda. Allora riprendo il testo che tu hai menzionato. Il primo giorno degli azimi, e lo attingo dal racconto di Marco volutamente, perché nel racconto di Marco noi abbiamo dei dettagli preziosi, particolari. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta, lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Allora, notiamo alcune cose. Prima di tutto, Gesù conosce questa realtà, conosce questa famiglia. Non dobbiamo pensare che Gesù è onnisciente, quindi prevede già il luogo dove fa a celebrare la Pasqua. No, in quella casa lui era già stato. C'è poi un dettaglio particolare. I due che lui manda, il fatto che Gesù ci sia stato non significa però che i dodici ci siano stati. Gesù conosce questa famiglia, conosce il padrone di casa, sa che è una famiglia particolare. Perché una famiglia particolare? Perché il segno che viene dato è quello di incontrare un uomo con una brocca d'acqua. Nella tradizione ebraica, chi compiva il gesto di attingere acqua non erano gli uomini, erano le donne. Il fatto che qui ci sia un uomo con una brocca d'acqua, quindi un servo, non una serva che porti l'acqua, ha fatto pensare alcuni studiosi a un gruppo particolare all'interno della città di Gerusalemme. Nella città di Gerusalemme c'era un quartiere che corrisponde praticamente a quello dove attualmente noi veneriamo il Cenacolo, che era il quartiere abitato da da coloro che simpatizzavano per gli Esseni, per questo gruppo religioso all'interno della comunità ebraica del primo secolo, e che aveva una propria lettura del Tempio, come l'aveva Gesù, aveva una propria lettura della gente, come l'aveva Gesù, aveva una propria lettura del sabato, come manifesta l'insegnamento di Gesù. Cioè ci sono tutta una serie di sintonie con questa comunità che ruota attorno al gruppo degli Esseni, e in questa comunità noi sappiamo che il calendario della Pasqua era un calendario diverso da quello ebraico, e Gesù celebra la Pasqua secondo un calendario diverso da quello in uso nella tradizione ebraica, se noi leggiamo in sinossi i quattro Vangeli. Ci sono degli usi e dei costumi diversi, come quello del portare acqua da parte di un uomo, legato ovviamente a delle norme anche di purità che governavano in questa comunità. E quindi tutti questi elementi messi insieme fanno pensare a questa associazione di fondo. Cioè, è vero, i dodici, i discepoli che Gesù manda, non conoscevano direttamente Marco, ma Gesù conosceva bene quella casa e conosceva bene quella famiglia, tanto vero da poter dare ai due discepoli dei segni di riconoscimento. Ecco perché vengono fatte queste associazioni. Ovviamente, caro Carlo, io termino sempre dicendo: le cose che vengono dette e che vengono ricostruite dagli studiosi hanno sempre il beneficio dell'inventario, cioè c'è sempre un margine di incertezza che resta di fronte a queste interpretazioni. Se comunque desideri approfondire maggiormente questi aspetti, nel commento che ho scritto al Vangelo di Marco, in tutta la parte introduttiva, entro un pochino nei dettagli di tutti gli elementi che ci permettono di capire chi è Marco e se è il Giovanni Marco degli Atti degli Apostoli. Anche se, ripeto, non chiudo mai con il punto, lascio sempre il discorso un pochino aperto, perché a mio avviso è giusto avere questa onestà intellettuale di fondo, cioè noi cerchiamo di approfondire il più possibile i testi sacri, ma come dicevano i maestri dell'ebraismo, ogni parola della Bibbia può avere 365 significati diversi, come sono i giorni dell'anno, e quando dice 365 intende dire infiniti significati, perché ogni giorno è diverso dall'altro. Grazie Carlo per la tua domanda. Allora, dalla regia mi dicono che è giunto il momento di fare i saluti, quindi prima di tutto ringrazio quanti di voi sono intervenuti, perché avete arricchito con le vostre domande la nostra trasmissione. Da Salvatore della Sicilia Franco, con domande molto grandi, a Giuliana da Reggio Emilia, Giorgio da Roma, Anna da Roma e il nostro Carlo, il nostro intervento finale di Arezzo. Davvero grazie di cuore a tutti voi. Noi ci risentiamo tra un mese e su tutti voi invoco la benedizione del Signore perché possa custodirvi, proteggervi e dare anche a voi l'esperienza della Pasqua come l'ha data a Pietro. Un caro saluto a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.